Con il sole e con la pioggia, con la neve e con il vento, non perdete questo evento. Non ci sono più le mezze stagioni di Roberta Giordano. Puntata specialissima, ve lo dico dall'inizio, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, non perdete questo evento come tutti gli altri, ma questa è una puntata appunto di quelle monografiche nella quale approfondiamo un argomento in particolare. Non è la solita formula di non ci sono più le mezze stagioni con tutte le notizie della settimana, è un opinionista estemporaneo, ma ci sono vari ospiti oggi perché vorrei trattare un tema molto importante. Se ricordate, qualche settimana fa, sempre in un'altra puntata speciale, avevo affrontato con gli ospiti i cambiamenti della politica, dell'offerta politica, anche causati da vari sommovimenti, non ultimo, anzi primo, l'indignazione popolare, poi tutto a seguire anche rispetto a chi è riuscito a coglierla, questa indignazione, a incanalarla, soprattutto in un movimento in particolare. Ma molto collegato a questo argomento c'è anche quello della comunicazione politica, perché ovviamente la politica si deve comunicare, no? I programmi, le scelte, non si sa più se sono contenuti o forme, insomma, però in ogni caso va comunicata. E questa comunicazione, se ci pensate, basta rifletterci anche poco, è molto cambiata rispetto a decenni fa, se vogliamo dire anche al secolo scorso, visto che il 1900 è già appunto da datare come secolo scorso. Come è cambiata invece rispetto ad allora la comunicazione politica contemporanea? Possiamo dire che a metà degli anni 90, con l'irruzione in politica in particolare di un personaggio che poi man mano citeremo, quindi abbiamo detto, vediamo se solo di contenuti, di forme eccetera, ma sicuramente come è cambiata anche la pubblicità e la comunicazione politica, e ovviamente anche una forma di pubblicità, anche questa è cambiata. Politica è demagogica, è scatologica, questa politica economica non vale. Nelle segrete stanze del potere, chi ci entra poi non ci esce più. Non c'è via di scampo, salvati almeno tu. Salviamoci, vedremo come ci salveremo, insomma, le cose vanno avanti, man mano noi cerchiamo di osservarle, di interpretarle, anche appunto grazie agli ospiti in particolare di questa puntata che vi vado, signore e signori, subito a presentare. Gianni Riotta, direttamente dagli Stati Uniti. Gianni! Ciao, come stai? Eccolo lì, Gianni, che arriva un po' di leggero ritardo, anche se la voce è limpidissima di Gianni. Io sto bene, speriamo che anche l'Italia man mano stia meglio. Gianni Riotta, editorialista della Stampa, è stato direttore del TG1, anche del Sole 24 Ore, docente alla Princeton University negli Stati Uniti, dalla quale lo stiamo chiamando e sentendo, e anche del IMT, Istituto di Alti Studi, Istituzione Mercato e Tecnologie di Lucca, vero Gianni? Andiamo proprio sullo studio dei big data, cioè analizziamo come la conversazione sociale sul web riflette la politica, e nell'ultima campagna elettorale abbiamo visto che la riflesse in modo molto fedele. E tra poco infatti ne parliamo. Il suo libro, tra l'altro, l'ultimo di Gianni Riotta, si intitola Il web ci rende liberi, politica e vita quotidiana nel mondo digitale. C'è Gian Pietro Mazzoleni, benvenuto Mazzoleni. Gianpietro. Buonasera Roberta. Eccoci qua. Gianpietro è docente di comunicazione, Gianpietro Mazzoleni, docente di comunicazione politica all'Università degli Studi di Milano, direttore della rivista Comunicazione Politica, giusto per sottolineare il tema. E fra i suoi libri, a parte il manuale che tutti i suoi studenti si litigano e naturalmente acquistano, non è soltanto un passaparola, la comunicazione politica, c'è Politica Pop, da porta a porta all'Isola dei Famosi, un libro scritto qualche anno fa, ma sempre di estrema attualità, e che già appunto leggeva e interpretava in modo differente e sempre con uno stile seduttivo, molto sempre più seduttivo della comunicazione politica. Poi abbiamo Stefano Bartezzaghi. Sì, buongiorno, eccoci. Benvenuto Stefano, giornalista, enigmista, scrittore, ha pubblicato numerosi volumi, fra gli ultimi, fra i tanti, anche un galateo della comunicazione intitolato Come dire, visto non c'è un politico che non dica come dire, come intercalare ogni due per tre. E poi abbiamo la nostra Valeria Della Valle. Sì, come no, buonasera. Ciao Valeria, ospite conosciutissima e costante di Non ci sono più le mezze stagioni, docente di linguistica italiana all'Università Sapienza di Roma, che ha scritto di recente insieme a Giuseppe Patota, oltre a tanti altri libri, Piuttosto che le cose da non dire, gli errori da non fare, pubblicato da Sperling e Kupfer. Già questo Piuttosto che a me mi fa venire sempre l'orticaria, a volte anche l'uveite, Valeria Della Valle, poi ci dirai appunto in quali errori più facilmente cadono i politici. Ma inizierei da Gianpietro Mazzoleni, appunto, che ha scritto La politica pop, perché è vero, Mazzoleni, che a proposito di cambiamenti della comunicazione politica, la politica si è sempre più avvicinata al modo trasmettere significati, simboli, emozioni, contenuti della TV, perché ha capito che bisogna fare audience, cioè non è più quella politica seriosa, pensosa, anche autorevole però degli anni, parecchi anni passati. Sì, la politica si è sposata direi subito con la televisione, quando ha cominciato a diffondersi tra la popolazione, rimaniamo pure in Italia, negli anni 50 e 60, ci ha messo un po' ad acquisire linguaggi tipici della televisione, però negli ultimi 20 anni, appunto parlando dal momento in cui la televisione diventa anche commerciale, è stato un rapido e intenso sposalizio tra politica e televisione. E gli effetti si sono anche visti nel linguaggio, nelle forme, nei contenuti della comunicazione politica e partitica italiana. Gianpietro Mazzoleni però si attribuisce sempre, in positivo e in negativo, e questo spartiacque all'avvento di Berlusconi, no? Nel 94. È proprio da lì, da lui, dalle sue TV, dal personaggio diciamo outsider che era al tempo, prima di fare una lunga carriera politica anche lui. È vero che parte tutto da lì o già era partito prima in altre forme? No, era già partito prima, era già partito non molto tempo prima, devo dire, perché è quando il momento in cui nascono i network televisivi, che non erano all'inizio tutti di Berlusconi, Rete 4 e Italia 1 erano di imprenditori e di editori privati, e lì già si sperimentarono con Tortora, per esempio, ed altre forme di moderne, così un po' più simpatiche, un po' più, oggi diremmo, pop, no? Popolarizzate di comunicazione politica. E addirittura vedere De Mita seduto su una poltrona quasi papale dei primi programmi di Tortora, che in qualche modo lo prendeva pure in giro, oltre che presentarlo agli elettori di allora, ecco, fa un po' specie, però ecco, anche personaggi così complicati nel linguaggio, intendo dire, come De Mita, si erano già quasi adattati, ecco. Poi Costanzo ha fatto anche di suo sui vari canali, quindi c'è stato un preludio. Poi è chiaro che nel momento in cui è arrivato Berlusconi quasi si è compiuto un periodo di sperimentazione, ed è diventato proprio politico. Si è codificato e si è moltiplicato. Gianni Riotta, tu che sei stato... È stato un crescendo anche da quel momento. Certo. Gianni Riotta, tu che sei stato direttore del TG1, io mi ricordo anche le tue interviste politiche con Tavolo Tondo, tu in manica di camicia, quindi già anche il tuo modo di comunicare più disinvolto, più caldo, più popolare, no? Anche questo successo che da diversi anni hanno i talk show politici, che sono visti un po' effettivamente come degli eventi di infotainment, non solo proprio la tribuna politica di una volta. Ma sai, la tribuna politica di una volta fu una rivoluzione incredibile, perché per la prima volta la gente vedeva a casa sua Togliatti, Nenni, Fanfani, che prima aveva visto soltanto da lontano in piazza, quindi fu una a suo tempo una grande rivoluzione, e certe volte rimpiangiamo il vecchio Iader Iacobelli e il suo tentativo di avere una comunicazione politica raziocinante quando vediamo appunto nei talk show tutti che si danno uno contro l'altro. Però il punto che io provo a fare nel web Ci rende liberi è che stiamo andando verso un cambiamento rivoluzionario per tutto il Novecento. Tu prima citavi il XX secolo, il Novecento, sì. La politica comunicava le masse, il grande leader di destra, di centro, di sinistra, parlava a sterminate masse di elettori che comunque la pensavano tutti quanti un pochino nello stesso modo. Adesso nel XXI secolo, se guardi per esempio la rielezione del presidente Obama nelle scorse elezioni per la Casa Bianca, la politica parla a individui, a singole persone che raggiunge via il web e che non sono più una massa. Cerca di fargli arrivare un messaggio specializzato uno per uno, uno per uno, uno per uno, e questo cambia completamente la rivoluzione e la comunicazione politica. Ci fermiamo, cogliamo l'occasione proprio di questa chiusura di ragionamento di Gianni Riotta, proprio per fermarci, perché c'è alla parte tecnica il nostro Paolo Corleoni che mi avverte che abbiamo naturalmente gli aggiornamenti per chi viaggia, e comunichiamo, il nostro modo di comunicare loro quali sono le ultime notizie, e poi ritorniamo qui con Gianni Riotta, con Gian Pietro Mazzolini, Stefano Bartezzaghi e Valeria Della Valle a parlare di come si sta evolvendo la comunicazione politica. Tutto è politica, la politica riempie le piazze del mondo. Ognuno a suo santo, che miracoli fa. Nelle ricchissime terre di Padania risuona forte un grido libertà. Lì dall'alta Italia vengono in sud a liberare. Ai ai, le donne son più brave, le donne, quando scendono in politica con impegno e onestà. Ecco, poi mi piacerebbe parlare sempre, Roberta Giordano, con voi questa puntata speciale sulla comunicazione politica e la sua evoluzione, la sua situazione contemporanea, insieme a diversi ospiti che tra poco rinominerò, appunto per ricordare a chi si fosse messo in onda sulla frequenza di Radio 24, non ci sono più le mezze stagioni in questo momento. Dicevo, mi piacerebbe parlare anche delle donne, del modo di comunicare delle donne, sempre tenute un po', diciamo, sotto il tappeto in politica come anche in tutti i luoghi che contano, però vediamo poi se si può cogliere qualche differenza. Stefano Bartezzaghi, tra i politici, prima Gianni Riotta citava Obama, che sicuramente parte l'altissimo livello, insomma, di statista, rispetto, forse con tutto il rispetto, scusate il vestigio di parole, quelli che abbiamo noi, su quali, insomma, possiamo, tra i quali possiamo scegliere in Italia. Obama è stato sicuramente un politico che ha saputo usare al meglio gli strumenti della cultura popolare, di cui abbiamo cominciato a accennare con Gian Pietro Mazzolini. E tra i vari presenti sulla scena politica attuale, Berlusconi, Renzi, Grillo, ma anche Monti, che nella campagna elettorale che ha fatto, insomma, ha cercato di farsi consigliare da guru americani, di diventare un po' più umano, il nipotino, poi col cagnolino, più sorrisi, più calore. Tu che, come li osservi? A chi daresti la palma d'oro del comunicatore? No, per carità, lungi da me questo ruolo, che sarebbe... Hai paura poi di ritorsioni? Assolutamente incompetente. No, perché figuriamoci, se ne sento di dire di tutto e tutto quanto fa spettacolo, come si dice. Mi pare che ognuno a suo modo, poi, e ognuno più o meno efficacemente, cercano di, appunto, adeguarsi a queste novità di cui abbiamo appena sentito parlare, e questo, appunto, crea dei buffi, anche incidenti, no? Io ho sempre in mente quando il professor Mario Monti, chi l'avrebbe mai detto, ha digitato wow o ha fatto digitare wow in un tweet per evidentemente adeguarsi a un linguaggio che poi però è chiaramente non il suo. E così anche il cagnolino Empi, insomma, secondo me... Ti ricordi anche il nome, ti ricordi? È stato efficace. Obiettivamente indimenticabile. Però, appunto, un adeguamento a questa politica che ha finito anche per selezionare tutti questi che hai nominato. In realtà sono bravi, perché sono stati selezionati, come una volta c'erano le scuole di partito, le frattocchie e via dicendo, e comunque faceva strada anche il politico che era bravo nei comizi. Così, appunto, chiaramente il volto, sappiamo che ci sono stati proprio dei veri e propri casting, no? In alcuni casi, per selezionare delle persone che siano efficaci in questo lavoro di comunicare, di coinvolgere, di emozionare. Comunicare, appunto, poi chissà se sarebbero o dei buoni amministratori, insomma, qualche prova l'abbiamo anche avuta, però di fatto il consenso si costruisce anche con il proprio modo di apparire e quindi anche con il proprio modo di comunicare. Questi sono mediamente tutti bravi, e appunto, ma non tutti a proprio agio, ecco, con i codici che sono richiesti oggi. Valeria Della Valle, abbiamo detto, è scritto piuttosto che le cose da non dire, gli errori da non fare, ci sono citati molti politici con i loro strafalcioni. Intanto, per diciamo una informazione e comunicazione urbi e torbi, diciamo chiaramente a tutto il pubblico, milioni e milioni di Non ci sono più le mezze stagioni, intanto il piuttosto che non è disgiuntivo, non significa fare un elenco di varie offerte, no? Prendi il mandarino piuttosto che la banana, piuttosto che l'anguria, non serve a questo, no. O una cosa servire, o l'altra. Non deve servire, usato così al posto della semplice congiunzione o, è un vero e proprio errore. Abbiamo usato questo titolo, abbiamo preso questo uso sbagliato quasi come simbolo non solo degli errori, ma questo lo potremmo considerare quasi un errore di moda, perché agli usi tradizionali del piuttosto che erano quelli di essere usati in funzione comparativa e avversativa, a partire dagli ultimi decenni del secolo scorso si è sostituita questa che è una vera e propria moda arrivata dal nord, e quindi abbiamo cominciato da lì, e poi il gioco, diciamo così, la ricerca ci ha preso la mano e abbiamo voluto dare esempi reali di errori fatti da personaggi noti. E noi facciamo nomi e cognomi dei politici. Facciamo nomi e cognomi. Iniziamo con uno da una parte e uno dall'altra. Nomi e cognomi uno da una parte e uno dall'altra. Sì. Se pensiamo, prendiamo di nuovo l'espressione piuttosto che, sì, usata in modo sbagliato. Chi è che la dice? Allora, ecco, sì, direi che la regina del modo sbagliato di usare piuttosto che in luogo di o è l'ex ministra del turismo Michela Vittoria Brambilla. Che lo usa continuamente, di qualsiasi argomento parli, a un certo punto ci infila questo piuttosto che. Speriamo che ci ascolti. Però devo dire, sì, che accanto a lei lo hanno fatto purtroppo anche ben due ministri della pubblica istruzione, Maria Stella Gelmini e il ministro Profumo. Ma per non essere di parte, c'è stata una trasmissione recente televisiva, Che tempo che fa, di Fabio Fazio, e c'era una bella intervista a Roberto Saviano, e lì c'è caduto anche Roberto Saviano, che ha inanellato una sequenza di piuttosto che. E questo dimostra proprio la forza della moda, perché è un uso settentrionale. Saviano è tutto fuorché settentrionale. Eppure è stato contagiato a sua è volta. È stato contagiato, infatti. Gianpietro Mazzoleni, adesso possiamo dire, appunto, sempre rifacendoci al concetto che avevi espresso con un libro di qualche anno fa della politica pop, che la politica si è adeguata a nuovi criteri, no? di coinvolgimento, di comunicazione, che non è più, dicevamo, l'autorevolezza, per carità, in alcuni casi la serietà, la funzione civica, ma è quella di rincorrere criteri di celebrità, di seduzione, di visibilità. E mi pare che di quelli che citavamo siamo tutti un po' contagiati, no? Sì, e sono tipici dei media moderni, della logica dei media, che è una logica prevalentemente commerciale. Piaccia o non piaccia, ovunque nel mondo occidentale perlomeno troviamo forme simili di adattamento del linguaggio politico, del discorso politico, della stessa politica a queste esigenze mediatiche, che sono esigenze che rispondono appunto commercialmente al fatto di avere audience. Quindi anche l'informazione, prima si citava il termine infotainment, oggi è sempre più orientata ad una presentazione, ad un impacchettamento dell'informazione che sia anche non necessariamente superficiale o stupido, però che sia gradevole, ecco, che sia raccontata in un modo che abbia capo e coda. Queste esigenze che sono tipiche anche di un giornalismo serio, che però appunto ha sposato questa forma di intrattenimento, virgolette ovviamente, la politica ci è saltata sopra e si è anche divertita. Diciamo che la politica si è dovuta adattare alle logiche dei media. E anche al mondo dello spettacolo, Gianpietro Mazzoleni, no? La logica dei media, intendo dire logica dello spettacolo, logica della celebrità, come accennavi tu. Ecco, queste esigenze che sono tipiche appunto del mondo dei media, dei lustrini, anche così, insomma, della visibilità ad ogni costo, ha sedotto molti politici, anche appunto prima si faceva l'esempio di Monti. Certo, Monti ha dovuto seguire una scuola privata, diciamo, di questo guru americano che gli ha insegnato anche a sorridere, a fare qualche battuta, non sempre ben riuscita, devo dire, però insomma, ecco, ha capito. Anche lui ha capito. Che doveva cambiare. Voleva fare il politico, doveva utilizzare anche lui queste forme. Poi si possono più o meno condannare, ma io mi fermo sulla soglia della condanna. Io non voglio condannare come studioso, dico che questo è come oggi la politica comunica, piaccia o non piaccia. Certo, Gianni Riotta, a proposito della politica che comunica, piaccia o non piaccia, il tuo libro, ritornando al tuo libro, Il web ci rende liberi. Il web, come l'ha sfruttato Grillo, non l'ha sfruttato nessuno, un maestro in questo, no? Sì, però vedi, come sempre la comunicazione è un'arma estremamente complicata, perché sia Stefano che Mazzolini hanno ragionato su Monti, Cane, e i wow. Beh, però il risultato elettorale di Monti è stato assai deludente. Perché? Perché scegliendo un modo di comunicazione che non era omogeneo al suo messaggio, e non è apparso né popolare né tecnocratico. Allora Grillo, la vulgata, diciamo, quello che si dice, quello che tutti dicono su Grillo è che Grillo sfrutta la rete meglio di tutti, ed è vero che il blog di Grillo è molto popolare, Grillo su Twitter è molto popolare, però la popolarità di Grillo viene dalla televisione. E Grillo ha investito sulla rete la straordinaria popolarità che aveva fatto sulla televisione pubblica e privata negli anni Ottanta. E pensare che Grillo sarebbe riuscito a creare questa popolarità solo sulla rete è ingenuo. Allora quello che dobbiamo vedere oggi per capire come funziona i media è proprio vedere la rete che si è creata, per cui la popolarità televisiva finisce sulla rete. La rete commenta i giornali danno argomenti di riflessione alla rete. Abbiamo creato un grande arcipelago in cui tutto è un contatto. Quindi Grillo, quando dice io sono solo sulla rete, non funziona. Tanto è vero che se ti ricordi qualche giorno fa, quando ci sono state le elezioni primarie di Grillo per il Quirinale, chi risultò prima fu la popolare giornalista della Rai, Gabbanelli. Anche lei personaggio TV. Online sceglievano un personaggio della televisione. Certo, questo è molto interessante, infatti, questa osservazione di Gianni Riotta. Cioè, Grillo che fa pensare, io sono nato dal nulla, il mio movimento, eccetera, con il web, internet, tutto si riferisce soltanto alla rete, è vero che ha sfruttato invece anni e anni di grandi successi TV, e quindi c'è tutto un intreccio interdisciplinare tra TV, web, ma anche la piazza, perché tra l'altro Grillo è anche uno che va in piazza. Ma ne parliamo tra pochissimo, perché Giorgio De Luca sbraccia in assistenza e regia per dire che cambiamo questa pausa, ma poi ritorniamo naturalmente tra pochissimo, continuiamo a parlare di come sta cambiando la comunicazione politica. Qui a Non ci sono più le mezze stagioni. Parole, parole, parole. Ascoltami. Parole, parole. Prego. Parole, parole, parole. Io ti giuro. Parole, parole, parole, parole, parole, soltanto parole, parole tra noi. Ma abbiamo capito, sì, che non sono soltanto parole, ma il modo di comunicare dei politici, della classe politica, si sta arricchendo man mano di tanti strumenti in più. C'è chi li sa sfruttare meglio e chi meno bene. Roberto Giordano, sempre con voi, questa puntata speciale, monografica, sull'evoluzione della comunicazione politica, di come sia stata contagiata, ne discutevamo con i nostri ospiti, dalla TV prima di tutto, ancora prima di Silvio Berlusconi, ce lo diceva Gian Pietro Mazzolini, docente di comunicazione politica all'Università degli Studi di Milano. Lo raccontava anche Gianni Riotta direttamente dagli Stati Uniti, editorialista della Stampa, è stato direttore del TG1, del Sole 24 Ore, e da Princeton, dove insegna, Stefano Bartezzaghi, giornalista, enigmista e scrittore, e Valeria Della Valle, che ha scritto Piuttosto che le cose da non dire, gli errori da non fare, e ogni tanto andiamo a pizzicare qualche politico, insomma, anche loro ne fanno parecchi errori, se ne fanno quando vengono presi così un po' alla sprovvista, a parte quando parlano così, quando comunicano per l'appunto in modo tranquillo, disinvolto, e a maggior ragione poi quando vengono ogni tanto interrogati anche su queste cose. Ma ritorniamo sugli strumenti. Stefano Bartezzaghi, a proposito dei social network, tu sei un frequentatore assiduo? Sì, abbastanza, più su Twitter che su Facebook. Infatti, Facebook ha cominciato, ha un po' segnato la strada, ma poi la politica comunica moltissimo, qualcuno ci è arrivato prima, qualcuno ci sta arrivando dopo attraverso Twitter, vero? Sì, 140 è certamente uno di quegli strumenti per quella modalità di cui che ha messo bene in luce prima Gianni, no? Gianni Riotta, cioè il fatto che si comunica a moltitudini di persone, però considerate come individui cercando di passare dei messaggi personalizzati. E quindi appunto Twitter è, diciamo, forse lo strumento più penetrante da questo punto di vista, e questo appunto poi ha anche ovviamente dei riflessi sulla qualità, non nel senso, diciamo, valutativo, ma proprio sul tipo di comunicazione che si fa, perché occorre sintesi, però bisogna essere efficaci, bisogna però anche stare attenti a non cadere appunto negli errori di un eccesso di disinvoltura che poi non appartiene all'immagine complessiva del personaggio, bisogna stare attenti all'uso che si fa, se è personale oppure se è lo staff, perché poi appunto Twitter è un pubblico molto in realtà molto sensibile, largo, vasto, ma però anche molto selezionato, certo. E quindi anche molto selettivo, e sta molto attento anche ai dettagli di quella che viene chiamata netiquette, cioè appunto quel bon ton che si usa, che è necessario usare su internet a rischio di proteste diciamo vivaci. Valeria Della Valle, allora prima ci hai portato l'istruzione del piuttosto che il più odiato forse degli errori con l'ex ministra Brambilla, ex ministra Gelmini, Profumo, ma anche Saviano, vabbè, abbiamo parlato così forse di Oriente, Saviano non è un politico ma l'abbiamo comunque introdotto. Altre cose invece, altre cose che ci fanno un po' irritare o rabbrividire talvolta? Tra l'altro fanno rabbrividire non solo noi che stiamo parlando di questo argomento, ma la cosa che colpisce è che nonostante si dica tanto spesso che la lingua italiana non interessa più a nessuno, in realtà c'è una forte sensibilità sull'argomento. Tant'è vero che quando un personaggio pubblico fa un grave errore di lingua italiana, di grammatica, le reazioni sono molto forti. Ecco, proprio in quei mezzi che indicavate prima, oppure addirittura viene ripreso da YouTube e sbeffeggiata la persona che fa l'errore. Ecco, cito un esempio a proposito di un periodo ipotetico sbagliato. Qualche mese fa il prefetto di Napoli, dico anche il nome, Andrea De Martino, è stato protagonista di un episodio increscioso nella sostanza, prima di tutto perché ha aggredito un povero sacerdote che si era rivolto di a lui signora. In maniera del tutto rispettosa, e quindi lo ha interpellato dicendo: se io la chiamerei signore, lei che cosa penserebbe? E quindi è stato lui stesso in maniera molto d'accordo grave con l'idea dal punto di vista linguistico. Dopodiché nell'intervento successivo si è corretto dicendo: ma lei mi fa anche sbagliare la lingua italiana. Però insomma quell'uso sbagliato del periodo ipotetico dimostrava una scarsa consuetudine, uno scarso dominio. Ecco, che cosa voglio dire con questo? Che un episodio come questo, e ce ne sono tanti, entra immediatamente nel circolo della diffusione mediatica e si ritorce contro la persona che ha commesso uno sbaglio a proposito della lingua italiana. E cito un episodio lontano nel tempo, in modo da non essere legata all'attualità. Nel 1994 il ministro della pubblica istruzione di allora, che era Francesco D'Onofrio, fece una dichiarazione pubblica, quindi ripresa da tutti, e sciaguratamente disse: vorrei che ne parliamo, invece di dire vorrei che ne parlassimo. Beh, questo episodio non solo finì su tutte le prime pagine dei giornali, ma mi dispiace quasi dirlo, insegue ancora la fama del ministro, soprattutto perché era ministro della pubblica istruzione. Allora, tutto questo per dire che, siccome si tratta di persone che dovrebbero anche rappresentare un modello di buon uso della lingua italiana, beh, quando cadono, forse è anche giusto sottolinearlo, che le conseguenze. Gianpietro Mazzoleni, scrivono anche sulla pagina Facebook di Non ci sono più le mezze stagioni, naturalmente, a proposito di chi apprezzano di più, di chi ritengono, insomma, che sappia meglio comunicare i propri programmi politici, la propria leadership. Devo dire che vince un po' banalmente, ma oggettivamente, Berlusconi, come dice Paolo, come dicono altri ascoltatori. Massimo però scrive: Grillo, con l'avvento della democrazia partecipata del Movimento 5 Stelle è cambiato tutto nel sistema di partecipazione alla vita politica. Poi cita la politica vecchia maniera invece del PD, il PDL che invece è un partito carismatico dove tutto cambia velocemente al cambiare dell'umore del suo leader. Cita Renzi e poi invece Carlo scrive: Berlusconi non comunica, compra deputati, pennivendoli, compra la gente per riempire le piazze, dice, mentre Grillo invece blatera i discorsi che gli scrive la mente pensante di Casaleggio, quindi molto critico Carlo. Corrado scrive: spiace dirlo, ma è evidente che Grillo e il suo movimento sono stati più bravi a sfruttare il web, ma prima è vero che sono stati più bravi a sfruttare il web, ma come prima ci ricordava Gianni Riotta, è partito lui da un grosso, come possiamo dire, patrimonio, eredità che aveva man mano affastellato grazie alla TV. Liliana dice: il miglior comunicatore è sicuramente Berlusconi, anche lei torna su questo e dice: si dà un target e sa perfettamente come raggiungerlo. Che dici, Gianpietro Mazzoleni, in questa classifica? Poi c'è Renzi comunque. Diciamo che ci sono, possiamo dire che ci sono delle somiglianze tra Renzi e Berlusconi, al di là che Renzi piace molto anche alla destra, però questa certa piacioneria, no? L'immagine sempre, che Berlusconi ha sempre curato moltissimo e continua a lottare anche contro gli anni che passano, mentre Renzi ha il vantaggio di essere più giovane, però una certa piacioneria, il fatto di risultare dei piacevoli, come si potrebbe dire, malandrini, anche il fatto di presentarsi come dei corpi estranei rispetto al sistema. Che dici, Mazzoleni? La tecnica seduttiva della comunicazione, anche politica ovviamente, non esiste solo nella sfera politica, che alcuni sanno usare molto meglio di altri. Voglio dire, qui è stato citato Berlusconi, è stato citato Renzi, perché non abbiamo citato Bersani, per esempio? Bersani, ecco, povero Bersani. Non calzerebbe, nel senso che non è un personaggio che comunica quella che Severgnini in un libro qualche anno fa chiamò la pancia, la pancia del paese. Oggi tendenzialmente i politici che parlano alla pancia, che poi la sfera delle emozioni, la sfera dei sentimenti, la sfera del piace o non piace, appunto, è una tendenza che alcuni sono bravi a seguire, altri ci provano e non riescono. O altri proprio non ci provano e dicono che non è il loro modo di comunicare. Ecco, poi ovviamente le conseguenze, le implicazioni, gli effetti di questo uso o non uso del registro istituzione può avere successo o meno, questo dipende molto dalle circostanze, anche dalla cultura di un paese, può funzionare, non so, negli Stati Uniti o in Italia, magari funziona meno in Germania, o in Svezia, dipende molto anche qui dalle tradizioni e dagli usi e dalle sensibilità dei vari cittadini e anche dei vari politici. Gianni Riotta, secondo te c'è un modello specifico che funziona in Italia di comunicazione politica e un altro negli Stati Uniti, o almeno nel mondo occidentale può essere una modalità diffusa che incontra gusti un po' di tutti? Guarda, è sempre un errore credere che una buona comunicazione politica possa sostituire una buona politica. È una pia illusione. La sinistra italiana ha perso svariate elezioni contro Silvio Berlusconi proprio persuasa che Berlusconi fosse un buon comunicatore, che vincesse grazie alle televisioni, mentre invece Berlusconi ha vinto o perso le sue campagne elettorali secondo il messaggio politico che riusciva a veicolare. Allora è ovvio che una buona comunicazione è indispensabile, però prima di tutto devi avere un buon leader e devi avere un buon messaggio politico. Guarda le campagne delle primarie del Partito Democratico, tutti sfottano un pochino il Partito Democratico perché non sa comunicare, sì, o perché non saprebbe comunicare. Beh, nella campagna delle primarie ha comunicato benissimo. Ha comunicato benissimo quando erano sbagliati i candidati, ha comunicato benissimo quando sono rimasti soltanto Bersani e Renzi. Quando poi è rimasto solo Bersani, sono andate alle elezioni politiche e non hanno comunicato. Perché? Perché persuasi dai sondaggi che avrebbero vinto le elezioni, hanno pedalato piano piano cercando di non rovinarsi la volata, con il risultato che se la sono rovinata. Allora non è una cattiva comunicazione, perché gli uomini che hanno fatto la comunicazione di Bersani alle primarie sono bravissimi professionisti, sono stati gli stessi uomini che hanno fatto la comunicazione Bersani alle politiche, e soltanto che il primo messaggio era azzeccato e il secondo messaggio era sbagliato, capisci? Allora questo poi è il vero problema su cui bisogna ragionare. Devi avere un forte leader e devi avere un forte messaggio. E Berlusconi è sicuramente un forte leader e un forte messaggio. Non significa condividere o non condividere la sua piattaforma, vuol dire che lui è un leader riconoscibile e un messaggio riconoscibile. La stessa cosa vale per Grillo, un leader riconoscibile e un messaggio riconoscibile. Quando tu hai questi dati, poi la comunicazione segue. Chiarissimo, chiarissimo, grazie. Gianni Riotta, e con gli altri ospiti ancora una pausa perché dobbiamo comunicare a chi sta viaggiando quali sono gli aggiornamenti per loro, e poi ritorniamo tra pochissimo. Abbiamo bisogno di un posto accogliente, pieno di gente, di larità. Chissà dove si può andare per cantare e ballare, per sognare e godere. Ma certo ragazzi, che stupido! Ultima parte della trasmissione, sempre Roberto Giordano con voi e gli ospiti Gianpietro Mazzoleni, Gianni Riotta, Stefano Bartezzaghi e Valeria Della Valle. Stefano Bartezzaghi, ora a proposito di comunicazione politica, citiamo anche Franco Battiato, no? Quella gaffe terribile ai miei occhi che ha fatto al Parlamento europeo dicendo che il Parlamento italiano era pieno di titr. Insomma, per me è stato un atto misogino veramente inaccettabile. Poi lui si è arrampicato un po', benché io ami follemente le sue canzoni, anche la sua vena poetica, eccetera. In questa cosa non mi è piaciuto. Che modo di comunicare è stato questo? Poi c'è il vaffanculo di Grillo, no? Forse diciamo che un po' di parolacce, di insulti e cose sono un po' più rientrati nella comunicazione politica rispetto al passato, no? Un pochino meno di stile, almeno da questo punto di vista, c'è? Certo, sono due modi, diciamo, totalmente opposti, perché innanzitutto quello di Grillo è, diciamo, intenzionale, ma emblematico, nel senso che anche Franco Battiato sapeva benissimo cosa stava dicendo. Appunto. Però, appunto, Grillo fa parte proprio di una strategia, che è una strategia che poi, tra l'altro, lui solo all'interno del movimento può adottare, che è quella della satira applicata alla politica, il linguaggio della satira che si fa linguaggio politico, e il turpiloquio diventa una specie di gesto linguistico o liberatorio, e quindi è una cosa tutta, diciamo, a sé. Il caso di Battiato forse è anche più interessante, anche se evidentemente molto delimitato a una singola occasione, e darei anch'io per affetto il beneficio, diciamo, di una seconda opportunità, perché ha detto qualcosa che poi secondo me non era neanche misogino, cioè il linguaggio lo è, perché usiamo quella parola per intendere, diciamo, dei un meretricio che non è per gli uomini, non esiste, diciamo, solo femminile, no? Lui parlava anche dei parlamentari maschi in quel caso lì, e evidentemente ha detto qualcosa nella sede sbagliata, in un momento assolutamente sbagliato, e è rimasto soltanto il modo di espressione rispetto alla cosa, che all'opinione che voleva esprimere. Penso che anche in quel caso si sia trattato del tentativo di adottare un gergo molto comprensibile, anche diretto e quindi anche forte, perché quando tutti parlano bisogna urlare, no? Viene fuori il linguaggio da stadio, molto semplificato, e che si fa notare per enfasi, soltanto che non era il caso, e non l'ha maneggiato, è una persona raffinatissima, e non ha maneggiato un materiale che è molto delicato, perché è facile da farselo scoppiare in mano. Così è stato. Valeria Della Valle, sinteticamente, un Renzi, un Grillo, che cosa, qualche strafalcione, qualche errore? No, da Renzi nessuno strafalcione, ma lì diciamo che Renzi è toscano, in un certo fiorentino, senso è privilegiato dalla nascita, insomma, difficile che un fiorentino di cultura media buona, buona famiglia, di lingua italiana, italiana. Mentre Grillo, sì, Grillo ogni tanto ne fa, c'è cioè un famoso liquefando invece di liquefacendo che naturalmente abbiamo raccolto. È anche vero che proprio mi sembra legato al suo modo di esprimersi una totale indifferenza se questo errore che ho appena citato gli venisse rinfacciato. Sono convinta che insomma non farebbe una piega da Grillo, no? Non darebbe importanza a questi elementi, perché ecco, quindi una totale disinvoltura e disinteresse a volte per questi aspetti minuti così della, formali, secondo il suo punto di vista almeno. Gianpietro Mazzoleni, dicevo prima le donne, no? Naturalmente sempre in vetrina, che se ne dica, ci sono gli uomini. È vero, ultimamente vedo sia da parte del Partito Democratico che da parte del PDL mettere in campo delle giovani sempre più belle, bisogna dire. La bellezza è, deve essere per forza un criterio di comunicazione politica al femminile? No, ufficialmente non dovrebbe essere, però richiamo quello che ho detto prima della la logica dei media. Se una appunto è avvenente, parla bene, si presenta bene, insomma, attira subito l'occhio del conduttore e quindi la invita, che so, a Ballarò, e quindi si fa ancora vedere di più e diventa, insomma, acquisisce visibilità, acquisisce anche una certa autorevolezza, perché quando vai in questi talk show dici anche delle cose interessanti, serie, con domande, eccetera, quindi senz'altro aiuta. È chiaro che in una visione più corretta della politica non dovrebbe avere peso, però si parlava prima di politici selezionati perché sono mediagenici, quindi questa mediagenia o telegenia, anche qui, piaccia o non piaccia, purtroppo entra nel meccanismo di selezione della classe politica. Proprio per quello che si diceva. I politici oggi maschi guardano anche di buon occhio questa. Senz'altro Berlusconi si distingue in questo, però penso che anche altri politici abbiano avuto un occhio di riguardo per coloro. Per questo aspetto è sempre di più, per chi è avvenente, per chi è attraente, quindi attrae, coinvolge. Mentre chiedo a tutti, tra pochissimo, proprio ognuno in 3 secondi, di dirmi che consiglio darebbero di comunicazione politica alla classe politica italiana, velocissimamente, Gianni Riotta, ti volevo chiedere, questo fatto che Grillo dice appunto che loro sono bravi a comunicare, però non comunicano con i giornalisti, adesso leggermente di più, ma i giornalisti invece comunicano con loro inseguendoli ovunque, così proprio un flash, che impressione ti dà? Che razza di comunicazione è anche da parte dei giornalisti, guarda, nei confronti della politica? Penso che questo si sia chiuso con la candidatura, ripeto, di qualche giorno fa della Milena Gabbanelli al Quirinale. Tutte le polemiche di Grillo, la comunicazione è realtà. La comunicazione non sono parole, la comunicazione è realtà. Quindi nel momento in cui, dopo aver detto che i giornalisti italiani fanno schifo e la RAI fa schifo, e per mesi, per anni, Beppe Grillo ha scelto un insigne collega giornalista della RAI come la Gabbanelli come sua candidata numero uno al Quirinale, ha assolto immediatamente per sempre sia la RAI, che non può essere la sentina di vizi che diceva se ha mantenuto in onda per tanti anni la bravissima Gabbanelli, sia la categoria dei giornalisti italiani che ha espresso Mila Gabbanelli. Quindi comunicativamente Grillo ha sciolto la polemica con la candidatura Gabbanelli per sempre. Ecco, io allora quindi volevo chiedere questo impegno finale a tutti gli ospiti, proprio in 3 secondi ognuno. Stefano Bartezzaghi, che consiglio di comunicazione daresti ai politici? Ma parlare italiano, non per efficacia ma per onestà, italiano e non gergo. Valeria Della Valle, tu che sei linguista? Beh, non posso che ripetere, sì, parlare italiano, come diceva Stefano Bartezzaghi, e possibilmente esprimersi bene. Anche il cattivo uso della lingua italiana ha determinato, è stato un elemento dello scollamento tra politici e popolazione, tant'è vero che il cattivo italiano viene continuamente loro rimproverato. Gianpietro Mazzoleni, che consigliamo? Di unire alla seduzione, che comunque c'è nel discorso politico, volenti o nolenti, anche l'autorevolezza, che troppo spesso manca in molti politici, che saranno anche mediagenici, ma sono delle nullità da un punto di vista politico. Molto severo ma efficace Gianpietro Mazzoleni, quindi seduzione ma anche autorevolezza. Gianni Riotta, in chiusura? Ricordatevi che dobbiamo creare lavoro nell'economia digitale, quindi non importa, fate una proposta perfino in dialetto, però fatela per creare lavoro nell'economia digitale. Grazie, grazie a Gianni Riotta, Gian Pietro Mazzoleni, Valeria Della Valle, Stefano Bartezzaghi. Buona comunicazione a tutti e a tutti, ed è Roberta Giordano, Sereni Orizzonti a tutti.